Euroreportage. PMI a rischio nell'UE. Registrare i coloranti costa troppo. Di Livia Zancaner. Nato con l'obiettivo di tenere sotto controllo le sostanze tossiche e censirle, rischia di danneggiare le piccole e medie imprese europee che, al contrario delle multinazionali, fanno fatica a sostenere i costi. Il regolamento REACH, entrato in vigore 9 anni fa, impone alle aziende europee che importano o producono sostanze chimiche sopra una tonnellata di registrarle presso l'ECA, l'agenzia europea con sede a Helsinki, fondata ad hoc. Con tutti i pro e i contro, ci spiega Fabrizio Di Cesare, amministratore delegato di ChemColor e presidente dell'associazione Dye & Stuff. Questo regolamento ha uno scopo molto nobile, che è quello di salvaguardare la salute dell'essere umano e dell'ambiente. Ed è un obiettivo che tutte le aziende condividono pienamente. Certo, però ci sono dei contro, diciamo così. Ci sono dei contro, che sono rappresentati da alti costi di registrazione. Sono stati stimati che possono variare tra i 20 ai 200-250 mila euro a sostanza. Lei lascia immaginare una piccola media impresa italiana che tratta anche soltanto un centinaio di sostanze, perché nel nostro specifico caso parliamo di coloranti per il settore tessile, cartario e contrario, che si trovano a dover affrontare dei costi così elevati per ogni singola sostanza. Il problema grosso di questo regolamento è l'insostenibilità per le piccole e medie imprese. La soluzione dunque quale sarebbe, secondo lei? Le soluzioni possono essere molte. Quelle che noi abbiamo proposto da lungo tempo presso tutti i palinsesti che ci hanno ascoltato, che devo dire sono stati molti, a partire dalla Comunità Europea fino al Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero della Salute, siamo riusciti a spiegare che la nostra possibile suggerimento di soluzione sarebbe quella di registrare gruppi di sostanze, famiglie di sostanze che siano chimicamente compatibili, simili a tal punto da avere effetti uguali sia sulla salute dell'uomo che dell'ambiente, in modo tale da poter suddividere il costo di diversi dossier di registrazione e raggrupparli in un'unica famiglia. In tal modo il regolamento diventerebbe decisamente più sostenibile per tutte le imprese. Si abbatterebbero molto, moltissimo, tanto da passare ai 20.000 ai 2-5.000, quindi questo per la tariffa minore, anche perché la registrazione cambia in base alla fascia di tonnellaggio che un'azienda vuole registrare. Le fasce vanno da 1 a 10 tonnellate, da 10 a 100, sopra le 100, più bassa è la fascia, più alto è il costo per chilo di registrazione, che poi andrà ribaltato lungo la filiera. La data ultima per la registrazione è il 2018, ma quali sono dunque i rischi per le piccole e medie aziende europee e italiane? In gioco c'è la sopravvivenza stessa dell'attività, raccontano gli imprenditori, a cui non converrebbe più registrare le sostanze perché i costi sarebbero più alti del valore prodotto. Si parla di centinaia di imprese che potrebbero chiudere, con il conseguente taglio di migliaia di posti di lavoro e la perdita di almeno 200 coloranti a favore di quegli articoli prodotti fuori dall'Unione Europea che non devono rispettare le stesse regole. Le ripercussioni ovviamente si sentirebbero su tutta la filiera, anche se a volte le grandi aziende non hanno interesse a sostenere gli importatori e vanno a rifornirsi all'estero, sottolinea Pietro Pistolese del Ministero della Salute. Ora, che cosa accade? Accade che le piccole e medie imprese operano nel settore dei coloranti, sono ditte che importano queste sostanze dai paesi terzi, prevalentemente, cioè da paesi extraeuropei. Una volta importate queste sostanze, le vendono in vari settori, quale quello delle pelli, del tessile e della carta. Sono settori sensibili e vulnerabili anch'essi, ma fino a un certo punto, perché questi settori adottano una politica che prevede la produzione degli articoli tessili, degli articoli in pelle, articoli in carta, presso paesi asiatici, paesi del Sud America, hanno spostato la produzione in questi paesi per motivi di basso costo della manodopera e non essere sottoposti così alle regolamentazioni e alle direttive dell'Unione Europea. Ora quindi l'Italia, parlando del settore tessile, ha un mondo che si estende fino all'alta moda, e dove vi sono delle multinazionali che potrebbero in qualche modo sostenere questi importatori, che nel nostro caso sono 12, a far registrare queste sostanze in modo da avere un prodotto in Italia dove loro si potrebbero rifornire e svolgere la loro attività senza dover ricorrere a una produzione esterna. L'alta moda non ha mai dato segni di vita su questa materia, eppure stiamo cercando in tutti i modi di tirarla dentro per sensibilizzandola sul problema, perché è un problema questo non solo del tessile, ma in generale di tutte le medie imprese. E anche dall'Europa non sono arrivate le risposte attese. Un regolamento di queste dimensioni, no? Che ha un impatto così incisivo sulle piccole e medie imprese, ma fino ad ora, no? Dopo 10 anni di regolamento RICE CLP, quante interpellanze parlamentari io ho dovuto leggere e rispondere su questa tematica? Nessuna. Cioè il problema è veramente gigantesco per le piccole e medie imprese, ma non vi è un pari riscontro a livello nazionale da parte della politica. Stiamo organizzando la quinta conferenza RICE quest'anno, che si farà il 16 novembre. In altri paesi questa sensibilità è molto diffusa, in Olanda, nel Regno Unito, che purtroppo va via, la Germania, sono molto attenti i cittadini. Per Cesar Knebel, numero uno di Codieco S.p.A., qualcosa però si sta muovendo. Abbiamo avuto 2-3 incontri e stiamo anche in questo senso avendo supporto di Federchimica, dell'Istituto Mario Negri di Milano. È tutta una catena che si comincia a profilare per sensibilizzare. Adesso, nella seconda metà dell'anno, avremo anche una seconda opportunità di anche esponere nel congresso europeo, nel Parlamento europeo, la problematica subita delle PMI in Europa. Più duro Massimiliano Salini, membro della Commissione per l'Industria del Parlamento europeo. A livello europeo se ne parla, ma è l'ennesima dimostrazione che l'Europa fa la prima della classe, ci racconta l'europarlamentare. Si parte infatti da un'esigenza corretta che per le PMI si trasforma però in un incubo continua, amplificato dalla Brexit, visto che le aziende inglesi non dovranno applicare la direttiva. Penalizzati quindi soprattutto paesi come Italia, Germania, Francia, Spagna, che hanno un settore manifatturiero molto forte, e la proposta di dividere le sostanze in famiglie potrebbe essere accolta, ma assolutamente non basta, spiega Salini. È una direzione che, almeno da quel che so io, dovrebbe essere accolta, perché il mancato accorpamento per famiglie si trasforma anche in una difficoltà enorme da parte dell'agenzia nel compiere verifiche caso per caso, quindi diventa quasi una necessità, ma non sarà risolutivo perché i costi di realizzazione dei dossier rimangono estremamente alti. Partiamo da un minimo di 25.000 euro ad alcuni casi in cui si è arrivati quasi ad 1.000.000, la media è intorno ai 200.000 euro, stiamo parlando di cose folli. Il modello di riferimento del regolamento RICE, per come era stato concepito, adesso che incomincia a essere applicato alle piccole e medie imprese, ha un potenziale in termini di danno per la nostra manifattura enorme, quindi la revisione che è stata immaginata, famiglie o non famiglie, non è sufficiente. Quindi c'è una soluzione? Secondo lei cosa si potrebbe fare, oppure si andrà verso questa registrazione al 2018? Adesso dobbiamo completare da qui al 2018 tutta la fase di verifica anche dei dati sull'impatto che ha, e adesso finalmente abbiamo anche i dati di impatto sulle PMI. Poi, a mio modo di vedere, ci sono due possibilità: o si riduce drasticamente la soglia di ingresso, quindi quello della tonnellata, o si alza il limite molto di applicazione, cioè il tetto di applicazione, o si riduce il numero di sostanze, oppure, che sarebbe la cosa più giusta, ma è la vera chimera che riguarda tutti i settori, il vero miraggio che riguarda tutti i settori, è che il regolamento RICE non sia un regolamento solo europeo, ma sia mondiale, cioè che tutti coloro che producono utilizzando quella materia prima, sia che lo producano in Unione Europea, sia che siano fuori dall'Unione Europea, rispettino quel regolamento. Più facile a dirsi che a farsi, per ora le piccole e medie imprese vanno avanti con la ricerca e con l'attività di lobbying a Bruxelles. Euro Reportage. In collaborazione con Euronet Plus.